www.radio3pod.rai.it. Vuoi essere anche tu protagonista in TV? Invia entro l'8 dicembre un tuo filmato sul sito evospot.it. G3 Ferrari selezionerà i filmati più originali per la nuova campagna TV dell'etilometro tascabile Evo. Regolamento su evospot.it. Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Manuela Mandracchia legge Il barone rampante di Italo Calvino. La fine del cavaliere avvocato fu raccontata da Cosimo dapprima in una versione assai diversa. Quando il vento portò a riva la barca con lui rannicchiato sul pennone e Ottimo Massimo la seguì trascinando la testa mozzata, alla gente accorsa al suo richiamo raccontò, dalla pianta su cui si era rapidamente spostato con l'aiuto di una fune, una storia assai più semplice. Cioè che il cavaliere era stato rapito dai pirati e poi ucciso. Forse era una versione dettata dal pensiero di suo padre, il cui dolore sarebbe stato così grande alla notizia della morte del fratellastro e alla vista di quei pietosi resti che a Cosimo mancò il cuore di gravarlo con la rivelazione della fellonia del cavaliere. Anzi, in seguito tentò, sentendo dire dello sconforto in cui il barone era caduto, di costruire per il nostro zio naturale una gloria fittizia, inventando una sua lotta segreta e astuta per sconfiggere i pirati, alla quale da tempo egli si sarebbe dedicato e che, scoperto, l'avrebbe portato al supplizio. Ma era un racconto contraddittorio e lacunoso, anche perché c'era qualcos'altro che Cosimo voleva nascondere, cioè lo sbarco della refurtiva dei pirati nella grotta e l'intervento dei carbonai. E infatti, se la cosa si fosse risaputa, tutta la popolazione d'Ombrosa sarebbe salita al bosco per riprendere le mercanzie bergamaschi, trattandoli da ladri. Dopo qualche settimana, quando fu sicuro che i carbonai avevano smaltito la roba, raccontò l'assalto alla grotta e chi volle salire per recuperare qualcosa restò a mani vuote. I carbonai avevano diviso tutto in parti giuste, lo stoccafisso foglia per foglia, i cotechini, i caci e di tutto il rimanente avevano fatto un gran banchetto nel bosco che durò tutto il giorno. Nostro padre era molto invecchiato e il dolore per la perdita di Nea Silvio aveva strane conseguenze sul suo carattere. Gli prese la smania di far sì che le opere del fratello naturale non andassero perdute. Perciò voleva curare lui stesso gli allevamenti d'api e vi s'accinse con grande sicumera, sebbene mai prima d'allora avesse visto da vicino un alveare. Per avere consigli si rivolgeva a Cosimo, che qualcosa ne aveva imparato. Non che gli facesse delle domande, ma portava il discorso sull'apicoltura e stava a sentire quel che Cosimo diceva e poi lo ripeteva come ordine ai contadini, con tono irritato e sufficiente, come fossero cose risapute. Alle arnie cercava di non avvicinarsi troppo per quella sua paura d'essere punto, ma voleva mostrare di saperla vincere e chissà che sforzo gli costava. Allo stesso modo dava ordine di scavare certi canali per compiere un progetto iniziato dal povero Enea Silvio. E se ci fosse riuscito sarebbe stato un bel caso, perché la buon'anima non ne aveva portato a termine mai uno. Questa tardiva passione del barone per le faccende pratiche durò poco, purtroppo. Un giorno era lì, indaffarato e nervoso tra le arnie e i canali, e a un suo scatto brusco si vide venir contro un paio d'api. Presa paura, cominciò ad agitare le mani, capovolse un alveare, corse via con una nuvola d'api dietro. Scappando alla cieca, finì in quel canale che stavano cercando di riempir d'acqua e lo tirarono su zuppo. Fu messo a letto. Tra la febbre delle punture e quella del raffreddore per il bagno, ne ebbe per una settimana, poi si poteva dir guarito. Ma lui prese uno scoramento che non si volle più tirare su. Stava sempre a letto e aveva perso ogni attaccamento alla vita. Nulla di quel che voleva fare era riuscito. Del ducato nessuno ne parlava più. Il suo primogenito era sempre sulle piante, anche adesso che era un uomo. Il fratellastro era morto assassinato. La figlia era sposata lontano con gente ancor più antipatica di lei. Io ero ancora troppo ragazzo per stargli vicino e sua moglie troppo sbrigativa e autoritaria. Cominciò a farneticare, a dire che ormai i gesuiti avevano occupato la sua casa e non poteva uscire dalla stanza. E così, pieno d'amarezze e di manie, come era sempre vissuto, venne a morte. Anche Cosimo seguì il funerale, passando da una pianta all'altra. Ma nel cimitero non riuscì a entrare, perché sui cipressi, fitti come sono di fronda, non ci si può arrampicare in nessun modo. Assistette al seppellimento di là dal muro. E quando noi tutti gettammo un pugno di terra sulla bara, lui ci gettò un rametto con le foglie. Io pensavo che da mio padre Eravamo sempre stati tutti distanti, come Cosimo sugli alberi. Adesso barone di Rondò era Cosimo. La sua vita non cambiò. Curava, è vero, gli interessi dei nostri beni, ma sempre in modo saltuario. Quando i Castaldi e i Fittavoli lo cercavano, non sapevano mai dove trovarlo, e quando meno volevano farsi vedere da lui, eccolo sul ramo. Anche per curare questi affari familiari, Cosimo adesso si mostrava più spesso in città. Si fermava sul grannoce della piazza o sui lecci vicino al porto. La gente lo riveriva, gli dava del signor barone, e a lui veniva di prendere delle pose un po' da vecchio, come alle volte piace ai giovani, e si fermava lì a contarla a un crocchio d'Ombrosotti che si disponeva a piè dell'albero. Continuava a raccontare, sempre in modi diversi, la fine del nostro zio naturale, e a poco venne svelando la connivenza del cavaliere coi pirati. Ma per frenare l'immediata indignazione dei cittadini, aggiunse la storia di Zaira, quasi come se il Carrega gliel'avesse confidata prima di morire, e così li condusse perfino a commuoversi della triste sorte del vecchio. Dall'invenzione di Sanapianta, io credo, Cosimo era giunto, per successive approssimazioni, a una relazione quasi del tutto veritiera dei fatti. Gli riuscì così per 2 o 3 volte. Poi, non essendo gli Ombrosotti mai stanchi d'ascoltare il racconto, e sempre aggiungendosi nuovi uditori e tutti richiedendo nuovi particolari, fu portato a fare aggiunte, ampliamenti, iperboli, a introdurre nuovi personaggi ed episodi. E così la storia s'andò deformando e diventò più inventata che in principio. Ormai Cosimo aveva un pubblico che stava a sentire a bocca aperta tutto quello che lui diceva. Prese il gusto di raccontare, e la sua vita sugli alberi, e le cacce, e il brigante Gian di Brughi, e il cane Ottimo Massimo diventarono pretesti di racconti che non avevano più fine. Parecchi episodi di queste memorie della sua vita sono riportati tal quali egli li narrava sotto le sollecitazioni del suo uditorio plebeo, e lo dico per farmi perdonare se non tutto ciò che scrivo sembra veritiero e conforme a un'armoniosa visione dell'umanità e dei fatti. Per esempio, uno di quegli sfaccendati gli chiedeva: «Ma è vero che non avete mai messo piedi fuor che sugli alberi, signor barone?» E Cosimo attaccava: «Sì, una volta, ma per sbaglio, sono salito sulle corna d'un cervo. Credevo di passare sopra un acero ed era un cervo, fuggito alla tenuta della caccia reale, che stava fermo lì. Il cervo sente il mio peso sulle corna e fugge per il bosco, non vi dico gli schianti. Io là in cima mi sentivo trafiggere da ogni parte, tra le punte acuminate delle corna, gli spini, i rami del bosco che mi picchiavano sul viso. Il cervo si dibatteva cercando di liberarsi di me, io mi tenevo saldo». Sospendeva il racconto, e quelli allora: «E come ve la siete cavata, signoria?» E lui ogni volta tira fuori un finale diverso. «Il cervo corse, raggiunse la tribù dei cervi che, vedendolo con un uomo sulle corna, un po' lo sfuggivano, un po' gli si avvicinavano curiosi. Io puntai il fucile che avevo sempre a tracolla e ogni cervo che vedevo lo abbattevo. Ne uccisi 50. «E dove mai sono stati 50 cervi dalle nostre parti?» gli chiedeva qualcuno di quei paltonieri. «Ora se n'è persa la razza, perché quei 50 erano tutte cerve femmine, capite? Ogni volta che il mio cervo cercava di avvicinare una femmina, io sparavo e quella cadeva morta. Il cervo non poteva darsene ragione ed era disperato. Allora decise di uccidersi. Corse su una roccia alta e si buttò giù. Ma io mi aggrappai a un pino che sporgeva ed eccomi qui». Oppure era una battaglia che s'era ingaggiata tra due cervi, a cornate, e ad ogni colpo lui saltava dalle corna dell'uno a quelle dell'altro, finché, a un cozzo più forte, si trovò sbalestrato su una quercia. Insomma, gli era presa quella smania di chi racconta storie e non sa mai se sono più belle quelle che gli sono veramente accadute e che a rievocarle riportano con sé tutto un mare d'ore passate, di sentimenti minuti, tedi, felicità, incertezze, vanaglorie, nausee di sé, oppure quelle che ci si inventa, in cui si taglia giù di grosso e tutto appare facile, ma poi più si svaria, più ci si accorge che si torna a parlare delle cose che si è avuto o capito in realtà vivendo. Cosimo era ancora nell'età in cui la voglia di raccontare dà voglia di vivere, e si crede di non averne vissute abbastanza da raccontarne. E così partiva a caccia, stava via settimane, poi tornava sugli alberi della piazza reggendo per la coda faine, tassi e volpi, e raccontava agli Ombrosotti nuove storie che da vere, raccontandole, diventavano inventate, e da inventate, vere. Ma in tutta quella smania c'era un'insoddisfazione più profonda, una mancanza. In quel cercare gente che l'ascoltasse c'era una ricerca diversa. Cosimo non conosceva ancora l'amore. E ogni esperienza senza quella che è? Che vale aver rischiato la vita quando ancora della vita non conosci il sapore? Le ragazze ortolane o pescivendole passavano per la piazza d'Ombrosa e le damigelle in carrozza. e Cosimo dall'albero gettava occhiate sommarie e ancora non aveva capito bene perché in tutte c'era qualcosa che lui cercava e che non era interamente in nessuna. A notte, quando nelle case s'accendevano le luci e sui rami Cosimo era solo con i gialli occhi di Gufi, gli veniva da sognare l'amore. Per le coppie che si davano convegno dietro le siepi e tra i filari s'empiva d'ammirazione e invidia e le seguiva con lo sguardo perdersi nel buio. Ma se si sdraiavano al piede del suo albero, scappava via pieno di vergogna. Allora, per vincere il pudore naturale dei suoi occhi, si fermava a osservare gli amori degli animali. A primavera il mondo sopra gli alberi era un mondo nuziale. Gli scoiattoli s'amavano con mosse e squittii quasi umani. Gli uccelli s'accoppiavano sbattendo le ali. Anche le lucertole correvano via unite, con le code strette a nodo. E i porcospini parevano diventati morbidi per rendere più dolci i loro abbracci. Il cane Ottimo Massimo, per nulla intimidito dal fatto d'essere l'unico bassotto d'Ombrosa, corteggiava grosse cagne da pastore o cagne lupe con spavaldo ardimento, fidandosi della naturale simpatia che ispirava. Talora tornava malconcio dai morsi, ma bastava un amore fortunato a ripagarlo di tutte le sconfitte. Anche Cosimo, come Ottimo Massimo, era l'unico esemplare d'una specie. Nei suoi sogni a occhi aperti si vedeva amato da bellissime fanciulle. Ma come avrebbe incontrato l'amore lui sugli alberi? Nel fantasticare riusciva a non figurarsi dove quelle cose sarebbero successe, se sulla terra o lassù dove era ora. Un luogo senza luogo. Immaginava, come un mondo cui si arriva andando in su, non in giù. Ecco, forse c'era un albero così alto che salendo toccasse un altro mondo, la luna. Intanto, con questa abitudine delle chiacchiere da piazza, si sentiva sempre meno soddisfatto di sé. E da quando un giorno di mercato un tale, venuto dalla vicina città d'Oliva Bassa, disse: «Ah, anche voi avete il vostro spagnolo!» E alle domande di cosa volesse dire rispose: «A Oliva Bassa c'è tutta una genia di spagnoli che vivono sugli alberi!» Cosimo non ebbe più pace finché non intraprese, attraverso gli alberi dei boschi, il viaggio per Oliva Bassa. Oliva Bassa era un paese dell'interno. Cosimo ci arrivò dopo 2 giorni di cammino, superando pericolosamente i tratti di vegetazione più rada. Per via, vicino agli abitati, la gente che non l'aveva mai visto dava in grida di meraviglia e qualcuno gli tirava dietro delle pietre, per cui cercò di procedere inosservato il più possibile. Man mano che s'avvicinava a Oliva Bassa, s'accorse che se qualche boscaiolo o bifolco o raccoglitrice d'olive lo vedeva, non mostrava alcuno stupore. Anzi, gli uomini lo salutavano cavandosi il cappello, come se lo conoscessero, e dicevano parole certamente non del dialetto locale, che in bocca loro suonavano strane, come «Signor! Buenos días, signor!» Era inverno. Parte degli alberi era spoglia. In Oliva Bassa attraversava l'abitato una doppia fila di platani e dolmi. E mio fratello, avvicinandosi, vide che tra i rami spogli c'era gente. 1 o 2 o anche 3 per albero, seduti o in piedi, in atteggiamento grave. In pochi salti li raggiunse. Erano uomini con vestimenti nobili, 3 corni piumati, gran manti, e donne dall'aria pure nobile, con veli sul capo, che stavano sedute sui rami a 2 o a 3, alcune ricamando, e guardando ogni tanto giù in strada, con un breve movimento laterale del busto e un appoggiarsi del braccio lungo il ramo, come a un davanzale. Gli uomini gli rivolgevano saluti come pieni d'amara comprensione. «Buenos días, señor!» E Cosimo si inchinava e si cavava il cappello. Uno che pareva il più autorevole di loro, un obeso, incastrato nella forcella d'un platano da cui pareva non potesse più sollevarsi, una pelle da malato di fegato, sotto la quale l'ombra dei baffi e della barba rasi traspariva nera malgrado l'età avanzata, parve domandare a un suo vicino, macilento, allampanato, vestito in nero eppure lui con le guance nerastre di barba rasa, chi fosse quello sconosciuto che procedeva per la fila d'alberi. Cosimo pensò che era venuto il momento di presentarsi. Venne sul platano del signore obeso, fece l'inchino e disse: «Il barone Cosimo Piovasco di Rondò, per servirla». «Rondos? Rondos?» fece l'obeso. «Aragonés? Gallego?» «No, signore». «Catalan?» «No, signore, sono di queste parti». «Desterrado también?» Il gentiluomo allampanato si sentì in dovere di intervenire a far da interprete, molto ampollosamente. «Dice Sua Altezza Federico Alonso Sanchez de Guatamurra y Tobasco, se Vossignoria è pur esso un esule, da poiché la vediam rampar per queste frasche». «No, signore, o almeno non esule per alcun decreto altrui». «Viaja usted sopra los árboles por gusto?» E l'interprete: Sua Altezza Federico Alonso si compiace di domandarle se è per suo diletto che Vossignoria compie questo itinerario. Cosimo ci pensò un po' e rispose: Perché penso mi si addica, sebbene nessuno me l'imponga. Feliz usted! Esclamò Federico Alonso Sanchez, sospirando. Ai de mi! E quello è nero a spiegare, sempre più ampolloso. Sua Altezza esce a dire che Vossignoria è da reputarsi fortunata a godere di codesta libertà, la quale non possiamo esimerci dal comparare alla nostra costrizione, che pur sopportiamo rassegnati al volere di Dio. E si segnò. Così, fra una laconica esclamazione del principe Sanchez e una circostanziata versione del signore nero vestito, Cosimo riuscì a ricostruire la storia della colonia che soggiornava sui platani. Erano nobili spagnoli ribellatisi al re Carlo III per questione di privilegi feudali contrastati e perciò posti in esilio con le loro famiglie. Giunti a Oliva Bassa, era stato loro interdetto di continuare il viaggio. Quei territori, infatti, in base a un antico trattato con Sua Maestà Cattolica, non potevano dar ricetto e nemmeno venire attraversati da persone esiliate dalla Spagna. La situazione di quelle nobili famiglie era ben difficile da risolversi, ma i magistrati di Oliva Bassa, che non volevano avere seccature con le cancellerie straniere, ma che neppure avevano ragioni d'avversione per quei ricchi viaggiatori, vennero a un accomodamento. La lettera del trattato prescriveva che gli esuli non dovessero toccare il suolo di quel territorio. Quindi bastava che se ne stessero sugli alberi e si era in regola. Dunque gli esuli erano saliti sui platani e sugli olmi con scale a pioli concesse dal comune, che poi furono tolte. Stavano appollaiati lassù da alcuni mesi, confidando nel clima mite, in un prossimo decreto d'amnistia di Carlo III e nella provvidenza divina. Avevano una provvista di doppi di Spagna e compravano vivande, dando così commercio alla città. Per tirare sui piatti avevano installato alcuni saliscendi. Su altri alberi c'erano baldacchini sotto i quali dormivano. Insomma, s'erano saputi aggiustar bene, ossia, erano gli olivabassi che li avevano così ben attrezzati, perché ci avevano il loro tornaconto. Gli esuli, da parte loro, non muovevano un dito in tutta la giornata. Cosimo era la prima volta che incontrava degli altri esseri umani abitanti sulle piante e cominciò a far domande pratiche. «E quando piove, come fate?» «Sacramos todo el tiempo, señor!» E l'interprete, che era il padre Sulpicio de Guadalete della Compagnia di Gesù, esule da quando il suo ordine era stato messo al bando dalla Spagna, «Protetti dei nostri baldacchini, rivolgiamo il pensiero al Signore, ringraziandolo di quel poco che ci basta. A caccia ci andate mai?» «Signor, algunas veces con el visco». «Talvolta uno fra noi unge di vischio un ramo per suo spasso». Cosimo non era mai stanco di scoprire come avevano risolti i problemi che s'erano presentati pure a lui. «E per lavarvi come fate?» «Para lavar? Hay lavanderas», disse Don Federico con un'alzata di spalle. «Diamo i nostri indumenti alle lavandaie del paese», tradusse Don Sulpicio. «Ogni lunedì, a essere precisi, noi si cala il canestro della roba sporca». «No, volevo dire, per lavarvi la faccia e il corpo». Don Federico grugnì e alzò le spalle, come se questo problema non gli si fosse mai presentato. Don Sulpicio si credette in dovere di interpretare. «Secondo il parere di Sua Altezza, queste son quistioni private di ciascheduno». «E chiedo venia, i vostri bisogni dove li fate?» «Ollas, signor». E Don Sulpicio, sempre col suo tono modesto, «susa certi orciolini, in verità». Congedatosi da Don Federico, Cosimo fu guidato dal padre Sulpicio a far visita ai vari membri della colonia, nei loro rispettivi alberi residenziali. Tutti questi idalghi e queste dame serbavano, pur nelle ineliminabili scomodità del loro soggiorno, atteggiamenti abituali e composti. Certi uomini, per stare a cavalcioni sui rami, usavano selle da cavallo, e ciò piacque molto a Cosimo, che in tanti anni non aveva mai pensato a questo sistema. Utilissimo per le staffe, notò subito, che eliminano l'inconveniente di dover tenere i piedi penzoloni, cosa che dopo un po' dà il formicolio. Alcuni puntavano cannocchiali da marina, uno tra loro aveva il grado di almirante, che probabilmente servivano soltanto a guardarsi tra di loro da un albero all'altro, curiosare e far pettegolezzi. Le signore e signorine sedevano tutte su cuscini da loro stesse ricamati, agucchiando. Erano le uniche persone in qualche modo operose, oppure carezzando grossi gatti. Di gatti v'era su quegli alberi gran numero, come pure d'uccelli, in gabbia questi, forse erano le vittime del vischio, tranne alcuni liberi colombi che venivano a posarsi sulla mano delle fanciulle e carezzati tristemente. In queste specie di salotti arborei, Cosimo era ricevuto con ospitale gravità. Gli offrivano il caffè, poi subito si mettevano a parlare dei palazzi da loro lasciati a Siviglia, a Granada, e dei loro possedimenti e granai e scuderie, e lo invitavano per il giorno in cui sarebbero stati reintegrati nei loro onori. Del re che li aveva banditi, parlavano con un accento che era insieme d'avversione fanatica e di devota reverenza, talvolta riuscendo a separare esattamente la persona contro la quale le loro famiglie erano in lotta e il titolo regale dalla cui autorità emanava la propria. Talvolta, invece, a bella posta, mescolavano i due opposti modi di considerazione in un solo slancio dell'animo, e Cosimo, ogni volta che il discorso cadeva sul sovrano, non sapeva più che faccia fare. Aleggiava su tutti i gesti e i discorsi degli esuli un'aura di tristezza e lutto, che un poco rispondeva alla loro natura, un po' a una determinazione volontaria, come talora avviene in chi combatte per una causa non ben definita nei convincimenti e cerca di supplire con l'imponenza del contegno. Nelle giovinette, che a una prima occhiata parvero a Cosimo tutte un po' troppo pelose o opache di pelle, serpeggiava un accenno di brio, sempre frenato a tempo. Due d'esse giocavano, da un platano all'altro al volano. Tic e tac, tic e tac, poi un gridolino. Il volano era caduto in strada. Lo raccattava un monello oliva basso e per tirarlo su pretendeva 2 pesetas. Sull'ultimo albero, un olmo, stava un vecchio chiamato il conde, senza parrucca, dimesso nel vestire. Il padre Sulpicio, avvicinandosi, abbassò la voce e Cosimo fu indotto ad imitarlo. E il conde con un braccio spostava ogni tanto un ramo e guardava il declivio della collina e una piana, or verde or brulla, che si perdeva lontano. Sulpicio mormorò a Cosimo una storia d'un suo figlio detenuto nelle carceri di Re Carlo e torturato. Cosimo comprese che mentre tutti quegli idalghi facevano gli esuli così per dire, ma dovevano ogni poco richiamarsi alla mente e ripetersi perché e per come si trovavano là, solo quel vecchio soffriva davvero. Questo gesto di scostare il ramo come aspettandosi di vedere apparire un'altra terra, questo inoltrare pian piano lo sguardo nella distesa ondulata, come sperando di non incontrare mai l'orizzonte, di riuscire a scorgere un paese, ahi quanto lontano, era il primo segno vero d'esilio che Cosimo vedeva. E comprese quanto per quegli idalghi contasse la presenza del conde, come fosse quella a tenerli insieme, a dar loro un senso. Era lui, forse il più povero, certo in patria il meno autorevole di loro, che diceva loro quello che dovevano soffrire e sperare. Manuela Mandracchia ha letto Il barone rampante di Italo Calvino, realizzazione tecnica di Carlo Cursi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.